Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 11 agosto, ben ritrovati e buongiorno a tutte e tutti da Antonella Cortese e un caro saluto in particolare alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna e della Dozza. E ben trovati su Liberi Dentro Eduradio TV, in onda, come ormai tutti sapete, su Radio Città Fuggico, Teletricolore e Lepida TV. E è il programma che fa ponte tra carcere e città al quale noi collaboriamo e che speriamo vi piaccia sempre di più. Saluto il mio co-conduttore, che è Ignazio De Francesco, volontario AVOC, che sarà con me Caterina per tutto il mese di agosto. Ciao Ignazio, buongiorno. Ciao, ciao a te, a tutte e a tutti. E come al solito un caro saluto e un ringraziamento a tutti i donatori che ci permettono di essere qui, di entrare nelle camere detentive proprio in questo mese caldo, e vi dedicheremo una ricompensa speciale la prossima settimana. Però adesso passo la parola a Ignazio, perché oggi di chi parliamo e di che cosa soprattutto. Allora continuiamo questa carrellata di testi che ci arrivano dal carcere e sono così utili per riflettere tutti noi, chi sta in casa e chi sta fuori. Abbiamo un testo bellissimo che mi è stato mandato, autografo, da Pasquale. Pasquale che ci parla, una cosa molto filosofica ma molto esistenziale, il senso del tempo. Il senso del tempo è molto importante, ma che senso può avere il tempo in carcere? Ascoltiamo Pasquale, cosa risponde a questa domanda. Qui dentro, in carcere, la vita si ferma. Bisognerebbe forse essere contenti per questo. E invece no, un detenuto vuole sempre che la sua pena finisca subito, all'istante, forse perché in un carcere nessuno trova una vera motivazione per godersi ogni singolo giorno, forse perché la mente umana non ha ancora capito che il tempo, l'orario, i giorni della settimana li abbiamo creati noi. Non si pensa che ogni istante che passa si invecchia e la vita pian piano si accorcia. Se si dice a una persona di 45 anni che da poco è stato arrestato e condannato a una pena di 20, se vuole svegliarsi l'indomani improvvisamente, avere scontato la sua pena accetterebbe senza pensarci, inconsapevole che si sveglierebbe a 65 anni, invecchiato di un bel po'. Mi sembra di capire che, malgrado tutto, anche in un periodo così difficile, per Pasquale il tempo ha un senso. Ignazio, ma è possibile che il tempo abbia senso solo nel momento in cui passa? Questa è proprio una domanda filosofica. Sì, e qua lui sta ragionando, e qua io vorrei invitare chi lo ascolta, chi ascolta Pasquale, a scriverci le sue riflessioni, sia dal carcere che fuori. Dice: ma qual è il senso del tempo? Scrive ancora il nostro Pasquale. Non pensate che questo quesito riguarda solo noi, intrappolati in mezzo a due lancette. Anche nella vita di tutti, a volte si vuole che il tempo passi in fretta. Ad esempio, sfido chiunque a dire che non abbia mai voluto che dal lunedì al venerdì, giorni lavorativi, non passassero mai, anzi tutto comincia all'inizio della settimana con un gran mal di testa, il famoso mal di testa del lunedì. E così non vedono l'ora che arrivi il sabato, domenica, per godersi un po' il senso del tempo. Ecco, senza volerlo trovato un motivo valido per apprezzare ogni singola ora di questa triste e bella vita. Cioè lui dice, mi pare che dica il nostro Pasquale, ma attenzione a volere che il tempo passi, finisce che poi uno non ne gusta il significato e anche la bellezza. Infatti ha ragione Pasquale, perché c'era anche una canzone che era Thanks God It's Friday, per fortuna è venerdì, finisce la settimana e quindi ci si riposa. Però la domanda è questa, Ignazio, se il tempo corre in modo così precipitoso, che senso ha guardarsi indietro? Guarda, qua non abbiamo, dovremmo stare ancora almeno 20 minuti sulla lettera di Pasquale, non abbiamo tempo, perché il tempo vola anche per noi del programma di Eduradio. Ma lui fa due esempi molto interessanti. Lui dice, guardate il Colosseo. Il Colosseo è Pompei. Colosseo la gente va a visitarlo, così poi anche si prendono i gelati, i fiori fuori, si gioca con i ragazzini e nessuno presta caso che proprio in quel luogo si sono svolti dei combattimenti atroci dove sono morte le persone per il gusto degli imperatori e dei romani che andavano a vedere queste cose. E poi l'altro luogo che cita è Pompei. Pompei ed Ercolano, due paesini situati sotto il Vesuvio, che un bel giorno il tempo si svegliò con la luna storta e insieme a lui anche il vulcano. Volle trovare un senso al suo tempo e così fu l'ora che seminò il terrore tra la gente di Pompei. Cioè in un attimo, dice, si riavvolge il nastro nell'attimo del disastro di Pompei. La lezione che ci viene dai tempi più lontani. Esattamente, è proprio così. Ignazio, tra l'altro, ha citato due siti archeologici meravigliosi che sono gli scavi di Pompei e di Ercolano. Ma che cosa vuoi dedicare a Pasquale? Allora, per Pasquale e anche per Ahmad, carissimo amico, che lo saluto se ci ascolta, vorrei dedicare un pezzo di una cantautrice algerina, Suad Massi, Rir Enta, che tradurrei così, non so se ci prendo giusto in dialetto, cioè sei tu che sei geloso. Benissimo, allora ascoltiamo il pezzo dedicato a Pasquale e Ahmad. Rieccoci dopo il bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato per parlare di un eroe per un giorno per il quale abbiamo fatto tutti il tifo in realtà, pur sapendo che la sua fuga sarebbe durata pochissimo. Parliamo di Julius Setito Leko, il sollevatore di pesi di 20 anni arrivato dall'Uganda in Giappone per le Olimpiadi e che poi si è dato alla macchia nella speranza di cominciare una nuova vita in Giappone. Però purtroppo è stato rintracciato dalla polizia a 160 chilometri dall'hotel dove alloggiava nella prefettura di Osaka. Si nascondeva a casa di conoscenti e la sua latitanza in realtà è durata solo 4 giorni. Ma scusa, non era arrivato in finale? Forse no, mi sbaglio. Infatti Ignazio non si era qualificato in realtà per le gare olimpiche. Sarebbe infatti dovuto ripartire per l'Uganda e invece ha provato a sfruttare quella che deve essergli sembrata proprio l'occasione della vita. Purtroppo nel paese sbagliato, c'è da dire, perché infatti in Giappone gli stranieri sono poco più del 2% della popolazione intera e la maggior parte sono asiatici. Mentre gli immigrati dall'Africa subsahariana sono veramente pochi, sono una manciata. E per un nero confondersi tra la folla è un'impresa pressoché impossibile, anche se Setito Leko ci ha provato lo stesso. E ha preso lo Shinkansen, che è la rete ferroviaria giapponese velocissima, ad alta velocità sulla quale viaggiano i cosiddetti treni proiettili, che nasce addirittura nel 59. Io sono stata negli anni 90 in Giappone ed era un'esperienza mistica, quasi andare su questo treno velocissimo, comunque, che copre di fatto il lungo tratto tra Tokyo e Osaka. E lui è andato a Nagoya e da lì ha proseguito per la prefettura di Mie, dove vive una piccola comunità di ugandesi. Però non aveva fatto conto che ci sono le telecamere praticamente dappertutto. Quando la polizia l'ha scovato a casa di conoscenti, ovviamente non ha opposto resistenza, ha semplicemente detto: voglio lavorare in Giappone, in Uganda la vita è troppo dura. Questa speranza, Antonella, è poi coltivata da molti atleti che vivono in condizioni difficili. Ignazio, perché a ogni evento sportivo, conferenza, meeting all'estero, i giovani ugandesi, in gran parte tra i 18 e i 30 anni, scelgono di intraprendere un percorso rischioso, rimanendo nel paese oltre la scadenza del visto, quindi come immigrati irregolari. Questo lo dice il Daily Monitor ugandese, e infatti scrive un editoriale intitolato «La sparizione dell'atleta dice molto di noi». E poi aggiunge: «Sappiamo tutti perché lo fanno, la mancanza di opportunità economiche è la causa principale». C'è da dire che l'immigrazione dai paesi dell'Africa subsahariana in Giappone è cominciata negli anni Ottanta, quando c'è stata la grande bolla economica, l'epoca d'oro. La domanda di manodopera da impiegare nell'industria portò il governo di Tokyo ad aprire i confini ai cittadini di vari paesi, ma in nome del mito dell'omogeneità, il Giappone praticamente ha sempre sminuito o misconosciuto la presenza delle minoranze. Ti faccio un paio di riferimenti importanti: gli Ainu dell'Hokkaido, i Ryukyuani di Okinawa, i coreani Zainichi, discendenti poi dagli immigrati durante il periodo coloniale. L'aumento degli stranieri ha prodotto un sentimento xenofobo che nei confronti degli immigrati africani ha assunto, insomma, una dimensione abbastanza importante. Ma il nostro personaggio non poteva fare una domanda di asilo per rimanere nel paese? L'avrebbe anche potuta fare volendo, se avesse avuto i requisiti per chiedere l'asilo, ma l'esito della domanda non sarebbe stato accolto probabilmente, dato che in Giappone il tasso di accoglienza dei profughi è tra i più bassi del mondo. Meno dell'1% delle richieste viene accettate. Pensa che nel 2019 un richiedente asilo nigeriano, detenuto da 3 anni in un centro di accoglienza, è rimasto in attesa di una risposta per tutto questo tempo ed è morto in seguito allo sciopero della fame cominciato per protesta. Quindi, insomma, non è un paese particolarmente ospitale da questo punto di vista. Però, fermiamoci qui, dedichiamo qualche cosa di musica. Allora, restiamo in Uganda, Ignazio, con un brano che si chiama Amaso, di Winnie Nwagi e Pinka. A voi, ascoltiamolo. Usiwa mulinga wejirisa Akanya makami ufuku choto Mabunga lirilo nchusa mundia Ama so gani kukwe Nituka misinda mpita Jagala tukatiwe ngayenza kwa itatia Mwaribu kakakali nange niba kukalia Jagala tukatiwe ngayenza kwa itatia Chapambala siku mugongo we kutuja nkusiga Uvugalo babu bumba mkusanyo sawa siwa nkutakula Nyumisi sobala munage Kunu unengo uvisi nage Ntaka mpola ninawe Mkubalila kebiro njitale Zanalina kwa walafu na yekwe kesio Exceptional Ingeri jongwa dao edi sasa professional Ama slogan ni kukwe Nitu kami sinde mpita Jagara tukatiwe ngayenza kwa itatia Walibu kakakali nange niba kukalia Jagara tukatiwe ngayenza kwa itatia Pakwita kwe isaba tulaba Mutwe kwa zafogwe bakamba Tiba manyinti kwa kusima Undi wala kalamu mutime wasemba love when I work as you exceptional. You get it, don't go down, it is so professional. I'm a so grand good way to come and see the one pita. Jagara took a deal when I answer for it. E rieccoci dopo aver sentito Amaso, e passiamo la parola a Caterina Bombarda con la sua intervista a Franco Bonisoli. A te Caterina. E rieccovi, bentornati su Liberi Dentro di Radio TV. Riprendiamo la chiacchierata con il nostro ospite della settimana, Franco Bonisoli. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bentornato su Liberi Dentro di Radio. Grazie. Come raccontavo ieri, sei già stato ospite e ormai collaboratore delle nostre puntate già da tempo. Ieri abbiamo parlato degli anni di piombo e del contesto che ti ha portato a fare nella tua vita certe scelte e poi a dissociarti da esse. Oggi parliamo degli anni in cui sei stato detenuto, tra crisi profonde e incontri significativi. Alcuni di essi ce ne hai parlato ieri, l'incontro con il direttore del carcere delle Vallette e un cappellano della casa circondariale di Nuoro. Vuoi continuare a raccontarci su questo? Sì, io ho vissuto soltanto quando sono stato arrestato, sono stato portato subito nel circuito di massima sicurezza, allora appositamente costruito proprio in quegli anni. E girai un po' questo circuito, che spesso alcuni carceri erano sulle isole, cioè l'Asinara, Pianosa, Nuoro. Il carcere era molto molto duro, no? Ma questo non mi stupiva, non mi preoccupava, anzi era la riprova che più il carcere è duro, più è una manifestazione della durezza dello Stato che noi combattevamo. E quindi quasi continuavo a giustificare la nostra lotta dura. Ho avuto i processi, ho continuato a girare in queste carceri dove insomma i livelli di difficoltà anche di rapporti con i parenti, con l'esterno, erano difficoltosissimi. Se non che in un carcere, a un certo punto, in un carcere alle Vallette, che era un carcere quando era appena stato aperto, l'avevamo inaugurato per un grosso processo alla colonna torinese delle Brigate Rosse, insomma. E nel caso trovai un direttore che paradossalmente, inaspettatamente, generò delle aperture, apertura al dialogo. E si fece costituire la commissione dei detenuti, cosa che noi non eravamo assolutamente abituati, anzi nelle carceri speciali era completamente negata. E invece questa cosa spiazzò un po' tutti, e l'indice di belligeranza, diciamo, col quale eravamo arrivati a questo processo, a concentrarci anche in tanti, no, per questo processo, si abbassò immediatamente. Da lì diede più possibilità di capire che c'era una possibilità diversa, no, di vivere anche all'interno del carcere. Sono tornato dopo il processo al carcere di Nuoro, dove invece mi sono accorto che il tempo era rimasto fermo, no? Scontri continui col personale, non potevi avere nessuno spazio, represso, schiacciato, insomma era ancora... E a un certo punto entrai profondamente in crisi, legato anche a una presa di coscienza, sicuramente, che il nostro progetto era completamente fallito. Da lì iniziamo questo sciopero della fame in pochi contro tutti, che fu una dichiarazione anche di dire che era finita con la lotta armata, e inaspettatamente noi eravamo decisi a morire proprio con questo sciopero della fame, nel senso che non pensavamo che nessuno sarebbe mai preso in considerazione di noi, ma non vedevamo altre possibilità per continuare a rimanere in carcere con dignità. Se non che chi si prese attenzione di noi fu il cappellano del carcere. Una persona molto semplice che fece un'azione anche clamorosa in difesa nostra e totalmente inaspettata. Franco, hai parlato di dignità. in questo racconto, dignità anche dello stare, del vivere in carcere. Ritorniamo su questo tra poco, dopo la musica. Restate con noi. Per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. È proprio tanto che piove e da un anno non torno. Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me. Non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà, un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. Ben ritrovati, sempre sul il nostro programma Liberi Dentro Duradio TV. Riprendiamo con te, Franco, dall'ultima domanda che ti stavo facendo. Abbiamo parlato di, hai parlato degli scioperi della fame, quindi direttamente ci ricolleghiamo a quella che è la dignità della persona detenuta. Io ti volevo chiedere, da questi lunghi anni in carcere, che cosa ne hai tratto alla fine e poi quale dovrebbe essere il valore rieducativo della pena? Ok, dignità della persona umana furono le parole che ci colpirono moltissimo e che in qualche modo ci dissero che dovevamo veramente cambiare registro, e furono le parole del Cardinal Martini al convegno dei cappellani del 1983, dove disse che se il carcere è pure necessario per una serie di ragioni, deve sempre essere preservata la dignità umana delle persone che vengono rinchiuse. E questo fu anche un po' un'altra cosa, no? Che ci diede come una svegliata, ecco, cioè dico, oh cacchio, ci sono anche altre voci, no, che entrano. E quindi abbiamo cominciato a dare ascolto su questo. Il cappellano del carcere di Nuoro mise in pratica questa cosa, quindi diede dignità a questa nostra situazione che stavamo vivendo con lo sciopero della fame, facendo un'azione clamorosa, denunciò pubblicamente la nostra condizioni. Tenete presente che in quegli anni Amnesty International dichiarava nei suoi report che in carcere le condizioni di detenzione erano paragonabili alla tortura, ma non se le filava nessuno, no? Invece proprio l'azione di questo cappellano, che ha avuto molto coraggio, perché erano anni molto difficili, molto duri, voglio dire, che lui dice, questa azione ci portò proprio a rivedere una possibilità di speranza, no? Tant'è che poi a un certo punto fu iniziato un percorso di modifica legislativa, fu tolto l'articolo 90, che era una forma di chiusura molto netta degli spazi, no, all'interno delle carceri speciali, e ci fu un cambiamento che noi decidemmo di riprendere ad alimentarci, e fu appunto, come dicevo la volta scorsa, iniziare una risalita nel purgatorio. Che cosa ha voluto dire questo? Che il carcere cominciava a darti delle possibilità. Elemento chiave fu, infatti anni di percorso, però cui il volontariato ha cominciato a entrare nelle carceri, non sapevamo neanche cosa fosse una volta, cominciato a entrare, e tu hai cominciato ad avere questa possibilità di scambio, no, con una parte di società, e quindi uscire un po' da quelle gabbie che ti fai quando più sei ristretto in carcere, più non sono solo le gabbie di ferro e cemento che hai intorno, ma sono le gabbie mentali che ti vai a costruire, che diventano delle difese, ma sono sempre gabbie. Ecco, quindi in questo senso l'apertura da parte della società ha aiutato veramente a rivedere anche la mia vita, no? Le mie scelte passate, e quindi ritrovare un approccio diverso verso la realtà. Dicevi il valore rieducativo della pena, quale dovrebbe essere? Ma non so, secondo me, io sono convinto che il carcere sia lo specchio più evidente di quella che è la società, no? Il modo più crudo. Quindi sarebbe interessante che la società desse attenzione al carcere, non tanto per dire, oh, come questi qua adesso recuperiamo queste persone, siamo tutti buoni, no, ma per dire, aspetta che mi guardo allo specchio e comincio forse io un processo di rieducazione, a capire quali sono le contraddizioni su cui lavorare per evitare che ci siano persone che escono dalle regole e finiscono in carcere, no? E quindi trovare un modo, usare da parte della società il carcere come un modo di riflessione per poi fare azioni concrete. Grazie Franco, e la prossima volta parleremo di giustizia riparativa, perché oltre a rileggere la tua storia tu hai fatto un passo in più, ma ne parliamo domani, quindi rimanete con noi sempre su Liberi Dentro. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, grazie. E rieccoci. Anche per oggi però la prima parte della nostra trasmissione termina qui. Però non cambiate canale, perché tra poco potrete vedere le rubriche Dialoghi sulla cittadinanza, con l'intervista al direttore generale del personale e delle risorse del DAP Massimo Parisi, cui seguirà la rubrica di Cefal sui mestieri, e parleremo del mestiere dell'elettricista. Vi ricordiamo che Liberi Dentro va in onda dal lunedì al venerdì su Radio Città Fujiko, Lepida TV e Teletricolore, mentre le rubriche, oggi parliamo di, ci saranno sempre anche nel weekend. Un caro saluto ad Antonella Cortese, Ignazio De Francesco, Caterina Bombarda e Nea Flacco. A domani, ciao! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.